donna che scrive, un bambino che gioca e un uomo lontano. Un pezzetto di cielo e un mare pulito che non ho mai scordato. E i miei anni più belli li ho vissuti con te, e la voglia di averti è più grande di me. Un paese che cambia è una radio che canta solo in lingua straniera, ma i ragazzi di oggi sono uguali nel cuore come quelli di ieri. E i miei anni più belli li ho vissuti con te, e la voglia di averti è più forte di me. Voglio un'altra vita per capire, per sognare, per andare più paura nel dolore di restare. Voglio amare questa terra mia, voglio respirare questo mare troppo grande da portare via, dentro una valigia senza nome, senza cuore, chiudere coi sogni una bugia. Puoi partire di nuovo per un altro lavoro quando i sogni non bastano, e provare a scherzare, ma si sente morire questo cuore italiano. E stavolta mi hai detto, devo amarti di più, e la forza che ho me la dai solo tu. Voglio un'altra vita per capire, per sognare, per andare via, senza più paura né dolore di restare. Voglio amare questa terra mia, voglio respirare questo mare troppo grande da portare. Senza nome, senza cuore, chiudere coi sogni una bugia. Beh.